una giornata veramente emozionante per tutte noi del Movimento Non Una di Meno. Oggi siamo in più di 40 città italiane e siamo in 70 paesi del mondo. Questo sciopero appunto è uno sciopero transnazionale che riesce a connettere e tenere in sé tantissime parole d'ordine che risultano fondamentali alla lotta femminista. Siamo qui non soltanto contro il DDL Pillon, non soltanto contro il disegno di legge, il decreto legge Salvini, ormai divenuto legge, ma siamo qua per opporci agli estremismi, al fascismo e allo sfruttamento di una società che intera si ripropone ogni giorno. Oggi non ci stiamo, oggi abbiamo deciso da che parte stare e siamo dalla parte dell'8 marzo. E ora noi siamo qui in Piazza Maggiore, però appunto la giornata continuerà tutto il giorno, lo sciopero è stato chiamato per 24 ore, quindi ti chiederei anche di ricordarci gli altri appuntamenti della giornata. Sì, intanto c'è da dire che lo sciopero è in piazza, ma è anche in tantissimi altri posti in città. Ci sono picchetti davanti alla IUCT, ci sono le lavoratrici di Talpizza a Modena che hanno ripreso a scioperare inizio settimana e che nel pomeriggio ci raggiungeranno, ci sono scioperi di autobus, treni, della DD, c'è lo sciopero della TAS che sciopera per intero e tantissime altre aziende, scuole e nel settore sanitario hanno aderito allo sciopero. Oggi pomeriggio il corteo è alle 5 in piazza 20 settembre e saremo tutte lì, anche coloro che oggi non hanno potuto scioperare, e rispetto a questo abbiamo aperto una chat stamattina dove si possono mandare messaggi sia scritti che vocali per coloro che non possono essere appunto qui fisicamente ma che scioperano comunque, perché questo sciopero, come ti ricordavo in apertura, è uno sciopero anche contro il lavoro riproduttivo, che può essere sia quello delle madri, quello delle casalinghe, ma anche e soprattutto quello delle badanti, che spesso sono in nero e sfruttate per 24 ore al giorno.